Italia in controluce, la politica nel tunnel. Siamo veramente dentro nel tunnel e non vediamo la luce ormai da diverse settimane, esattamente da quel 24-25 febbraio, e allora da quel momento abbiamo cominciato a raccontarvi attraverso le testimonianze, attraverso i nostri inviati, attraverso i nostri analisti, quello che avviene, quello che secondo noi avviene, sta avvenendo nella politica italiana. E il titolo di oggi è il seguente: il ciclone Renzi si abbatte sulla crisi politica, perché Matteo Renzi è entrato come un ciclone nella crisi politica. Un'intesa con Silvio Berlusconi oppure il voto? Io sono pronto, ha detto il sindaco di Firenze. Il tentativo di Renzi è duplice: archiviare la stagione politica di Pierluigi Bersani e battere Silvio Berlusconi sul campo, nelle votazioni, approfittando dell'effetto sorpresa. Intanto i saggi nominati dal Quirinale lavorano per una soluzione politica, ma le posizioni tra i partiti restano lontanissime, lontane anni luce, e il loro percorso è in salita ripida. Il Movimento 5 Stelle è abbastanza diviso, nonostante gli appelli all'unità di Beppe Grillo, e il Cavaliere lancia la corsa di Massimo D'Alema al Quirinale, anzi no, mandando Marta Carfagna a dire Emma Bonino. Insomma, c'è molta incertezza, sempre di più, e noi vi chiediamo alla 349-238-6666 se fa bene Matteo Renzi a spronare la politica, a spronare il PD da una parte, ma più in generale la politica, con questa sua iniziativa per superare questo stallo ormai di settimane. Renzi dice voto subito, ma secondo voi si deve andare al voto con questa legge elettorale oppure i partiti si dovrebbero mettere d'accordo per costruire e realizzarne una nuova, magari una che dà finalmente una certezza? Chi vince, vince, e lo si sa, come per esempio il maggioritario a doppio turno alla francese, che è, consiglio io, forse il miglior sistema elettorale è quello in cui gli italiani, con cui gli italiani votano il sindaco, per esempio, o votavano anche il presidente e votano anche il presidente della provincia. Allora, Elisabetta Fiorito, questa cosa ha fatto arrabbiare i bersaniani in modo durissimo. Sì, Daniele, intanto bisogna dire che la tua proposta sicuramente dà stabilità, quella di fare una legge elettorale con i sindaci, ma noi sappiamo che il doppio turno è sempre stato avversato dal centrodestra. Però il problema è nel PD, perché volano quelli che si dicono i fratelli coltelli, no? Noi ci eravamo abituati a un PD nel passato diviso tra Veltroni e D'Alema, adesso c'è un PD diviso tra Renzi e Bersani. E allora che cosa succede? Il Partito Democratico deve decidere cosa fare. Questo dice il sindaco di Firenze, la Chiesa ci ha messo di meno, noi sappiamo che poi Renzi è un cattolico e quindi ha ovviamente usato una metafora che ha a che fare con il Vaticano, ma soprattutto qui c'è un PD spaccato, perché Renzi, quando dice o si governa insieme a Berlusconi o si va al voto, in realtà poi c'è anche un'anima politica di Renzi che è quella più centrista rispetto a un'anima più di sinistra, come può essere quella del segretario e magari di Stefano Fassina, no? Che è responsabile economico del Partito Democratico. Tant'è vero che sono stati proprio i bersaniani poi a insorgere. Perché? Perché Stefano Fassina ha detto né Bersani né gli altri leader di partito perdono tempo, la cosa che ci aveva detto anche ieri Gian Claudio Bressa. E quindi la cosa è che anche Stefano Di Traglia, responsabile comunicazione, dice Renzi propone la stessa soluzione di Berlusconi, o governissimo o voto. Ovviamente il PDL approva, perché è quello che chiedono da sempre, dall'indomani delle elezioni. Per il PDL è importante fare un governo per fare le riforme istituzionali. o magari quelle piccole riforme come la legge elettorale, che non è una legge di cambiamento costituzionale, quindi una legge ordinaria che si può fare con una votazione semplice, e poi magari andare al voto con l'Europa il prossimo anno. Quindi parla Anna Maria Bernini, dice: è la sinistra dal volto democratico. Per Altero Matteoli, Bersani deve prendere atto di Renzi. Riguardo alla candidatura di Emma Bonino caldeggiata dalla PDL, ovviamente una candidatura alla quale il Partito Democratico non può dire di no. E perché? Perché ricordiamo che Emma Bonino fu candidata come governatrice del Lazio proprio dal Partito Democratico, una candidatura che poi è stata molto contestata perché si diceva che non era stata abbastanza sostenuta. Quindi la situazione è un magma indefinito all'interno del Partito Democratico, Daniele. Bene, bene, questo è quello che sta accadendo nel partito che dovrebbe aver vinto, almeno per quanto sulla carta, almeno per quanto riguarda le elezioni della Camera, anche se non al Senato, in quanto maggioranza relativa. L'altro aspetto è ancora lui, è ancora Beppe Grillo. Perché? Perché Beppe Grillo ieri ha diciamo inviato sul suo blog questo post con la domanda: perché hai votato per il Movimento 5 Stelle? Per fare un governo con i vecchi partiti, per votare in Parlamento il meno peggio. Insomma, questa volta, questa prossima volta hai sbagliato voto, dice: mi dispiace, la prossima volta vota per un partito. Ci sono 8.629 commenti in questo momento e sono veramente tanti. E prima di leggervene qualcuno e di dare la parola ad Andrea Viali, vi leggo invece i tanti sms che sono arrivati al 349-238-6666. Il ciclone Renzi deve andare via. Sciacallo che non aspetta che il cadavere di Bersani per marciarci sopra, dice. I bersaniani si svegliano piuttosto che arrabbiarsi, Cristiana. Penso che Renzi abbia ragione. Massimo da Milano, ex del Partito Democratico. Sia maggioritario doppio turno, no al Porcellum. Fabio da Prato. Bersani ha fallito, apertura immediata a Renzi, accordo col PDL, subito riforma elettorale, dice Luca. Alleanza con il PDL uguale arretramento del PD, visto che il governo passato di Silvio Berlusconi, ok, doppio turno, dice Andrea da Bologna. Certo che fa bene Renzi, se non si pensa il toscano, qui si va a rotoli. Emma Bonini al Quirinale, ottima idea. Patrizio da Pistoia. Renzi è arrivato tardi, non può più spronare un'entità in stato ormai comatoso. Bersani in preda al delirio, un altro ascoltatore. Fa bene Renzi, ma con una legge elettorale diversa. Destra, sinistra, centro, ma chi se ne importa, dice Michi. Fate qualcosa, perché qui non si fa nulla ormai da anni. Viola da Milano, il PD ha realizzato un rinnovamento enorme che non ha valorizzato né pubblicizzato, ed è ora di alzare la voce e tornare in piazza. Avendo provato sulla mia pelle le capacità di Renzi, sono un perno secco alle sue proposte, dice un altro ascoltatore. 349-238-6666, vi dicevo del blog di Beppe Grillo, 8.629 messaggi. L'ultimo è di Michele, che dice: qualcuno mi spiega come il Movimento 5 Stelle potrà cambiare veramente il paese. Sapete che non si arriverà mai ad avere il 51%, quindi a che serve il voto? Gli altri partiti fanno schifo, voi non avrete mai la maggioranza. Questo è l'ultimo degli 8.000 passa commenti che sono arrivati a questo post di Beppe Grillo. Andrea Viali. Daniele, non è soltanto la base grillina in questi giorni ad essere attraversata da malumori crescenti, ma lo è anche, forse anche di più, la pattuglia dei parlamentari del Movimento 5 Stelle. Oramai sono diversi quelli che hanno iniziato a manifestare, diciamo, un certo disagio per questa posizione di chiusura che è stata imposta da Beppe Grillo. Parliamo di una minoranza, ma comunque quella che sarebbe già identificata come una fronda interna, diciamo una pattuglia di parlamentari, la cui richiesta è quella di aprire un confronto con le altre forze politiche. Un confronto su cosa? Naturalmente sulla formazione del nuovo governo e sull'elezione del successore di Napolitano, ma ci sono in ballo anche altre questioni. Per esempio c'è la formazione delle commissioni parlamentari, ma anche il ritiro dei militari italiani dall'Afghanistan, due temi cari al Movimento 5 Stelle. Bene, su questi due temi stanno maturando delle convergenze con Sinistra, Ecologia e Libertà, convergenze che però, diciamo, questa chiusura al dialogo rischia in questo momento di far naufragare. Poi sono possibili delle intese sul PD anche sul tema della legalità, ci sono dei contatti in corso in questi giorni, in queste ore. Ecco, bene, su tutte queste cose si parlerà probabilmente domani o forse sabato nell'incontro, l'atteso incontro con Beppe Grillo e tutti i parlamentari del Movimento 5 Stelle. L'appuntamento è ancora in un luogo segreto, forse fuori Roma, per tenere alla larga i giornalisti, come abbiamo visto nelle ultime occasioni simili, ma staremo a vedere. Ieri comunque, lo ricordavi anche tu, Beppe Grillo si è rivolto agli elettori, ma evidentemente anche ai suoi parlamentari, per ribadire in modo molto netta la sua posizione, cioè la linea del muro contro muro, nessun dialogo con il PD, con le altre forze politiche, non soltanto sul nuovo governo e sul nome del prossimo inquilino del Quirinale, ma neppure, ha detto Grillo, con i saggi che sono stati da poco nominati da Napolitano. Daniele. Grazie Andrea Viale, grazie naturalmente ad Elisabetta Fiorito. Gli ultimi SMS che sono arrivate a 349-238-6666. Il PD è formato per l'80% da pensionati, Renzi fa bene ma è un'utopia, dice Alberto Raminano. Bersani ha vinto svariate primarie, non si capisce perché il segretario del PD debba essere deciso dai delusi di Berlusconi. Facessero la loro battaglia interna, dice Massimo, per avere le primarie. Governare con Berlusconi sarebbe un disastro per il PD e per l'Italia. E poi ne avevo visto un altro interessante che invece riguardava ecco, Rinaldo da Brunate. Sì, incondizionato a Renzi, sì al governo PDL e PD, no alle elezioni subito, Bonino presidente subito, nuova legge elettorale garantista di governabilità, dice Rinaldo da Brunate. Il programma del 5 Stelle era chiaro, nessuna alleanza, dice un altro ascoltatore, se il Movimento 5 Stelle si legherà al PD il mio voto non lo avrà più. Di tono assolutamente diverso sono almeno quattro messaggi che sono invece arrivati sul beppegrillo.it. Nel frattempo sono le 13.44 e 50 secondi, vi ricordo pagina Facebook, gruppo Facebook, Twitter, oppure il nostro sito radio24.it. In studio vi ha parlato Daniele Biacchesi.